E sì che potrei anche giurarti l'immenso di monolocale, una quiete di splendide cene al fast food sotto casa. Potrei regalarti parole che cullino notti a volerle passare, ma guarda che così mi fa male, non guardi a non mi fai respirare. Come Nino, come Nino quando aveva paura, sono qua. Tu che non guardi nemmeno, hai lo sguardo lontano, forse è lei. Io ti rispero che pugni serrati il pallone. Non lo guardo nemmeno e già corro lontano. E sì che potrei anche giurarti l'immenso di un monolocale, una quiete di splendide cene al fast food sotto casa. Potrei regalarti parole che cullino notti a volerle passare, ma guarda che così mi fai male, non guardi e non mi fai respirare. Potrei